Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. A volte nella realtà accadono cose veramente orribili e a volte capita che degli scrittori prendano queste cose orribili per farle diventare narrativa, per farle diventare letteratura, perché anche attraverso un romanzo si può capire la psicologia di chi è arrivato a compiere atti veramente truci, non ci sono altre parole per definirli. Il libro di cui vi parlo oggi si intitola Il giardino delle mosche, scritto da Andrea Tarabbia, pubblicato da Ponte alle Grazie. È stato anche uno dei 5 libri finalisti del Premio Campiello 2016. Vi dicevo che è un libro, diciamo, piuttosto scioccante, insomma, piuttosto forte, perché l'autore sorride, ma io devo dire ho perso il sonno alcune notti, perché racconta la storia vera e verosimile, diciamo sempre un mix in questo caso, di un simpatico signore dal nome Cicatilo che nell'ambito della sua vita, c'era ancora l'Unione Sovietica allora, ha ucciso 53 o 56, ho un dubbio in questo momento. Lui è stato condannato per 53 perché non hanno trovato tre corpi, però insomma diciamo è un serial killer del periodo diciamo sovietico, che ha ucciso soprattutto bambine, donne, bambini eccetera, con una psicologia veramente piuttosto inquietante. Allora, il romanzo è bello, bellissimo, ve lo dico subito, io mi ci sono tuffata dentro e veramente non sono riuscita a dormire, proprio perché Andrea Tarabbia ha avuto la capacità di farmi entrare nella mente del serial killer, ed è questo il pregio di questo libro, perché sì, si raccontano ovviamente gli omicidi, ma l'aspetto letterario, l'aspetto bello di questo romanzo è che l'autore è riuscito a entrare nella mente dell'assassino, e attraverso diciamo una sorta di confessione finale nel dialogo col giudice racconta parte della sua vita e si capisce perché, per come è arrivata ad uccidere, senza naturalmente giustificarlo o meno, insomma gli autori non prendono parte in genere in questi casi. Andrea, raccontare la storia di Cicatilo non deve essere facile, perché insomma è materiale piuttosto scottante. Perché hai deciso di raccontare proprio la sua storia? In realtà è molto difficile rispondere a questa domanda, perché non c'è un momento nella vita di uno scrittore in cui uno scrittore decide: adesso faccio questo tipo di libro, racconto questo tipo di storie. Diciamo che la storia di Cicatilo è una storia che mi ha affascinato da sempre, perché lui è stato arrestato nel 90, io avevo 12 anni. Come parecchi miei era soprannominato il mostro di Rostov, lo diciamo, sì, ma anche magari il macellaio rosso, insomma ne hanno tirate fuori parecchie di etichette, insomma. Sì. E lui era una figura affascinante, per come sono affascinanti, quando hai 12-13 anni, insomma, tutte le figure che compiono il male estremo, ed è rimasto diciamo come un basso continuo della mia vita. Io non sono uno studioso o né tantomeno un ammiratore, insomma, dei serial killer o di questo tipo di persone, però sono uno che è molto affascinato da quelle persone che superano nel bene come nel male i cosiddetti limiti dell'umano, in qualche modo, cioè che tirano allo spasimo quelle che sono le nostre pulsioni più segrete. E Cicatilo è un po' un paradigma di questa cosa, quindi a un certo punto ho pensato che poteva essere bello per me scrivere la sua storia. Io, leggendo la storia di Cicatilo, sono rimasta ovviamente molto scioccata anche dal suo passato, perché è stato un passato, un'infanzia di violenza. Sì. Lui ha visto per esempio la madre stuprata da soldati tedeschi. Sì. Aveva una madre che gli ha dato un'educazione anche molto rigida, quindi sì, attraverso tutta una serie di violenze da lui subite ha poi perpetrato quel meccanismo che lui conosceva. Quanto tu ti sei documentato sulla vita di Cicatilo e quanto invece hai dovuto naturalmente inventare su alcuni suoi aspetti psicologici? No, allora, mi sono documentato parecchio, facilitato dal fatto che di libri su Cicatilo ne sono usciti parecchi, scritti da criminologi, da psichiatri, anche da altri romanzieri, perché non sono il primo che si cimenta con la sua storia. Quindi, come faccio sempre, insomma, quando mi appresto a scrivere un libro, si tenta di leggere il più possibile, di vedere il più possibile documentari, video, per cui mi sono informato parecchio, ed è stato un lavoro relativamente semplice perché appunto si trova tanto materiale. Poi ci sono, ed è questo il motivo per cui scelgo certe storie anziché altre, nella vita di Cicatilo, nonostante i documenti, nonostante gli atti dei processi, eccetera, dei momenti in cui ci sono dei buchi, cioè non si sa davvero nell'anno X che cosa lui ha fatto, che cosa è successo, e lì che hai cosa pensa. E lì sono, diciamo, quegli spazi in cui tu puoi permetterti di inserirti come narratore, insomma, con la fiction, con la quindi fantasia. Diciamo che è un libro, qualcuno ha detto che è una biografia, qualcuno invece lo chiama romanzo storico, eccetera. È un po' tutto questo, nel senso che io lo chiamo romanzo psicologico, perché veramente mi ha fatto capire dei meccanismi della mente criminale, ecco. E non so se poi tu sei d'accordo su questo, però la cosa che ho avvertito soprattutto è il percorso veramente di come un uomo arriva a diventare un serial killer. Ma io, romanzo psicologico è una definizione che accetto come insomma, come accetto le altre che ti ho fatto. Poi in realtà uno non è che quando parte alla pagina bianca davanti dice adesso faccio un romanzo psicologico, adesso faccio un romanzo, metterlo in categoria. Però sì, cioè in realtà uno degli scopi, insomma, con cui io ho aperto questa pagina bianca e ho cominciato a riempirla con la sua storia, era quello di fare un ritratto della mente di quest'uomo, di che cosa cercare di capire. Poi non ti so dare per certo se l'ho capito oppure no, però insomma l'idea era quella di cercare di capire qual è il meccanismo che porta una persona che tutto sommato per un certo numero di anni della sua vita è stata una persona anche apparentemente comune, normale, grigia, no? Insomma niente di particolare. A un certo punto scatta questa cosa e lo fa diventare l'individuo più orrendo del Novecento. Ecco, la caratteristica di Cicatillo, tra l'altro, era che passavano anche molti anni fra un omicidio e l'altro. Gli omicidi sono avvenuti tutti fra il 1978 e il 90. E tu hai creato anche un parallelismo fra quella che era la disgregazione dell'Unione Sovietica e il comportamento di Cicatillo. Tant'è vero che in diverse parti Cicatillo parla così virtualmente a questo suo giudice e dice che lui ha svolto un compito sociale, quasi una pulizia delle cose che non andavano, tant'è vero che le sue vittime erano sempre persone ai margini della società. Ci puoi spiegare un po' meglio questo aspetto? Ma guarda, questa è una cosa che io non ho inventato, che ha detto lui. Lui disse questa cosa, nel senso che lui è sempre stato, fin dall'infanzia, da quando era ragazzino, un comunista convinto, cioè ha sempre aderito al partito, ha avuto per moltissimi anni la tessera, ha tentato di educare, riuscendoci anche in parte, insomma, i suoi figli, a cui non ha mai torto un capello, secondo quelli che erano i dettami del partito comunista, insomma. Quindi questa è una cosa che viene da lui. Così come viene da lui un'altra cosa bellissima: lui nel 92, dopo che è già stato arrestato, scrive centinaia di lettere di grazia, di richiesta di grazia, in quel caso nel 92, a Boris Yeltsin. E a Yeltsin lui dice una cosa meravigliosa, cioè la mia vita è collegata alla vita del paese. Vale a dire che quando succede qualcosa nell'Unione Sovietica, io ne rispondo in qualche modo personalmente. Da qui deriva tutta una serie di cose che lui disse al processo, per cui lui odiava la perestroika, perché era vissuta come una svendita, no, all'Occidente. Questo è un atteggiamento di molti russi, diciamo, che all'epoca non compresero in pieno. Sì. Ci fu proprio una spaccatura fra l'intelligenza russa che voleva la perestroika e, diciamo, il popolo che non riusciva a comprenderne la validità. Sì, io credo che a livello popolare Gerbachev sia stato il capo del partito più odiato in assoluto dai russi. Adesso forse qualcuno sta cominciando a rivalutarlo, ma sono passati più di 20 anni. Insomma. Quindi Cicatillo pensava di svolgere proprio un compito per il suo paese. Cicatillo disse più volte questa cosa terribile e bellissima, letterariamente parlando. Lui disse: vedete, il problema è questo: noi abbiamo fatto un paese, stiamo costruendo un paese in cui diciamo che ciascuno deve poter avere un lavoro, l'assistenza sanitaria, la scuola, un piatto caldo da mangiare. Prostitute, barboni, insomma, in generale quelli che... Persone ai margini della società sono in realtà l'emblema vivente, l'immagine vivente del nostro fallimento. Se io li elimino, vi faccio un favore. Questa è la logica folle di un uomo parzialmente usata con intento, come dire, autogiustificatorio, sì. No? Nel senso che queste cose lui poi le dice al processo, è chiaro che in qualche modo deve tirare l'acqua al suo mulino, certo, e quindi usa questa cosa, ma è una cosa che dice molto spesso e di cui alla fine io credo lui fosse veramente, nella sua follia, fosse veramente convinto. C'è una parola che ricorre spesso nel tuo romanzo ed è la parola mutilazione. Sì. O mutilazioni, sì. Perché Cicatillo Cicatillo, per esempio, molti non sanno che Cicatillo era impotente, sì, nonostante abbia compiuto poi dei delitti anche a sfondo sessuale, e per avere dei figli, insomma, era ricorso a tecniche molto, diciamo, fantasiose, mettiamola così. Che non ho inventato io, la tecnica con cui lui ha dei figli non l'ho inventata. Non l'hai inventata tu, quindi è tutto vero. Ecco, lui ritorna spesso con questo termine mutilazione, la mutilazione, le mutilazioni, non vuole far vedere qual è la sua mutilazione. Questo termine così ridondante è frutto di Andrea Tarabbia o effettivamente è frutto di Cicatillo? No, la ridondanza è sempre frutto di Andrea Tarabbia. Ok. No, allora però volevi evidentemente dire qualcosa. Io cercavo quell'immagine, insomma, quella parola che potesse in qualche modo riassumere a livello, come dire, psicologico, fisico e così via, quella cosa, cioè perché Cicatillo diventa quello che è. Cicatillo diventa quello che è perché gli manca qualcosa. Gli manca la possibilità di avere un'erezione, gli manca la possibilità quindi di avere una vita sessuale, ma anche sociale, perché poi insomma ha dei problemi proprio di relazione con gli altri, certo, fin dall'infanzia. È una persona a cui manca un pezzo, sia realmente, se così si può dire, sia metaforicamente. È una persona, tra l'altro, che insomma alle sue vittime non spara un colpo in testa, no, ecco, quindi, compie, cioè, delle mutilazioni, la mutilazione proprio. È anche, e poi mi piaceva questa cosa perché alla fine io racconto, cioè il Giardino delle Mosche è anche la scusa, se si vuole, per raccontare la dissoluzione di un mondo, la dissoluzione di un'idea che era comunque un'idea, sto banalizzando, insomma, però era un'idea granitica, no? Per esempio i quadri di Deneka degli anni 20 e 30 presentano questi fisici scultori, no? Il sovietico deve fare sport, deve lavorare, come dire, non come Stakhanov, però insomma farlo in modo particolarmente deciso, deve essere volitivo, la donna deve avere uno sguardo deciso. Insomma, il corpo sovietico è un corpo tutto d'un pezzo votato alla causa. Io racconto un corpo invece mutilato, e che mutila, non solo mutilato, ma anche che mutila, e come dire, è come se in questa immagine, in questa parola, si racchiudesse in nuce il senso della dissoluzione, no? Cioè, infatti è una parola ricorrente, si capisce che è volontà dello, sì, scrittore farla, come dire, entrare nelle orecchie del lettore. C'è una parte di questo libro che mi ha colpito molto nell'analisi psicologica del protagonista di Cicatillo. Tu scrivi, interpretando, diciamo, il pensiero di Cicatillo: per tutta la vita io ho riconosciuto i sentimenti degli altri. Questo sono stato un inseguitore di sentimenti che mi sfuggivano, che si davano soltanto agli altri. Naturalmente verrò ricordato per i miei atti, eppure io non sono stato altro che qualcuno che cercava di essere riconosciuto, che cercava un proprio posto nel mondo e che se lo vedeva ogni volta rifiutato. Questa cosa mi ha fatto pensare, te l'avevo già detto in una nostra conversazione privata, a un episodio che mi era accaduto in carcere a San Vittore quando facevo volontariato, cioè di un detenuto che scrisse un racconto e disse che la prima volta nella sua vita in cui si era sentito qualcuno era quando aveva tenuto il mitra in mano, perché gli avevano dato una definizione, in quel caso definizione di criminale, cioè era stato riconosciuto. Fino a quel momento c'era stata l'indifferenza totale dei genitori, del contesto sociale, eccetera. Quanto è importante, appunto, per Cicatillo, così per la mente criminale, mi viene da dire, quello dell'essere riconosciuto? Allora, guarda, io credo sia, non dico il motore di tutto, però una delle cose chiave, delle cose fondamentali, nel senso che la vita di Cicatillo è la vita di una persona che cerca continuamente un proprio posto nel mondo, facendo delle valutazioni sbagliate su se stesso, nel senso che lui pensa di essere qualcuno che merita di succedere a Stalin al Cremlino. Cioè ha un'idea, insomma, diciamo, piuttosto altisonante e ovviamente sbagliata, perché poi di fatto lui è intellettualmente un mediocre, insomma, una persona abbastanza comune, senza nessuna, però si pensa migliore di quello che è. Quindi tutto quello che lui riesce a ottenere a livello di studi, a livello di lavoro, a livello anche di famiglia, è qualcosa che non lo soddisfa, perché è poco. Secondo l'immagine che lui ha di sé, è poco. Quindi lui capisce, poi insomma a questo aggiungi i problemi sessuali, insomma tutto, sì, quello, certo, che viene, tutta una serie aggiungi di mutilazioni, come dicevi tu, e quindi ha bisogno, esatto, di un riconoscimento forte. A un certo punto lui scopre che questa onnipotenza che lui in realtà gli rimane in qualche modo inespressa, riesce invece ad esprimerle, a trovare anche una soddisfazione che è anche di natura proprio sessuale nel momento in cui uccide. Cioè lì lui diventa Dio. Lui si crede Dio nella vita normale, non lo è, e difatti insomma tutte le cose che gli succedono nella sua vita normale concorrono a fargli pensare che lui invece è una persona molto mediocre, molto comune, però lui quando prende una vittima la tortura la uccide, si sente pienamente, pienamente realizzato. Quindi uno dei motori della sua follia è questo desiderio appunto di sentirsi soddisfatto di sé in qualche modo, cioè di sentire che sta facendo delle cose che corrispondono alla grandezza che lui pensa di avere. Quando ho letto questo libro non avevo visto la foto, diciamo, nella bandella della copertina del libro, la foto tua, sì, la tua foto. Perché pensavo, non lo so, che un autore di un libro così avesse una... sai, l'ombrosiana, sono un po' l'ombrosiana, cioè, pensavo... Cioè il canine alla Dracula. Non lo so, pensavo... Invece poi uno ti vede e hai la classica faccia del bravo ragazzo, no? E poi vedi che hai scritto libri come Il demone a Beslan, che tra l'altro era un altro colpo al cuore mica da poco. Poi Il giardino delle mosche, diciamo, ispirato alla vita di Cicatilo. Una volta addirittura ho letto un'intervista dove tu dicevi: mi appassionano le vite dei serial killer. Che cosa c'è dietro questa faccia? Ma allora, guarda, se lo sapessi non scriverei libri, cioè non... No, non lo so, in realtà sono una persona molto comune, molto tranquilla, insomma. Credo però che la letteratura debba avere a che fare non necessariamente col lato oscuro, ma con qualcosa che va oltre la normalità, la quotidianità. Cioè se io devo usare i libri, questo vale sia come scrittore che come lettore, cioè io amo quelle opere che mi portano un po' al di là di una certa soglia, ma con questo non intendo la violenza, la brutalità, no? Parlo anche di grandi romanzi d'amore, insomma, mm-hmm. Cioè in generale io credo che, cioè credo, mi piacciono quei libri che mi fanno vedere il mondo da un punto di vista che per me è inatteso, nel bene e nel male, e quindi quando scrivo questi, quando architetto i miei romanzi, mi viene naturale pensare a queste vite al limite, a questi punti di vista, come dire, slabbrati e portati allo spasimo, e da lì guardare le cose del mondo e provare a raccontarle. Detto questo, non vado in giro la sera a rapire la gente, insomma, faccio... No, non sei Cicatilo, autore e protagonista sono decisamente diversi, no, come sì, sempre, sì, naturalmente. Grazie ad Andrea Tarabia, autore di Il giardino delle mosche, pubblicato da Ponti alle Grazie. Vi ricordo che questo è stato uno dei 5 finalisti del Premio Campiello 2016. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ogni volta che finisco di leggere un libro, ormai gli ascoltatori del Cacciatore di Libri sono abituati a sentirmi dire questa frase, cerco sempre di identificare un aggettivo, qualcosa che possa definire il romanzo. Beh, quando ho finito di leggere questo romanzo, ho pensato, però, tanta roba, sicuramente non è un commento letterario di alta letteratura, però rende bene l'idea. Il romanzo di cui vi parlo si intitola Le 100 vite di Nemesio, scritto da Marco Rossari, pubblicato dalle edizioni EO. Marco, io ho detto tanta roba perché effettivamente questo è un romanzo dove ci sono tante cose, al di là della trama, c'è uno stile che a volte è grottesco, a volte poetico, poi ci sono dei giochi con le parole, con la lingua, c'è il sogno, c'è la vita reale, c'è il rapporto padre-figlio. Allora, giusto per darvi le coordinate GPS del romanzo, si tratta di la storia di un personaggio, di un uomo che si chiama Nemo, diminutivo di Nemesio, che ha un padre piuttosto ingombrante, Nemesio Senior, possiamo definirlo così, che è un grande pittore, un grande artista, eccetera. E Nemo, attraverso i sogni, proprio sognandolo la notte mentre lui sta male in ospedale, eccetera, ricostruisce a suo modo la vita ipotetica del padre che ha attraversato il Novecento. Marco, ho detto tanta roba, lo so, non è un commento molto letterario, tu tra l'altro sei un traduttore di punta, hai tradotto tantissimi autori, quindi questo commento ti sembra un po' troppo, come dire, basic? No, è bello fresco, verace, quindi sollecitato dal libro, mi sembra giusto e corretto. Effettivamente anche io avevo pensato che sarebbe stato un libro abbastanza ampio. Quando ho cominciato, sai, ho pensato: ripercorro tutta la storia del Novecento, voglio rifarla tutta in modo onirico, scherzoso, rocambolesco, folle. E poi allo stesso tempo ha stupito anche me la quantità di cose che mi venivano, che uscivano. Quando l'editore mi ha fatto una telefonata per dirmi che il libro gli era piaciuto, una bellissima, indimenticabile telefonata, che non sempre capita con gli editori, mi ha detto questa cosa: Marco, c'è una battuta ogni tre righe. E io ho detto, ma è un difetto? No, no, no, è molto bello, molto bello. Sì, perché anche si ride, si sorride con questo romanzo, ma soprattutto è la capacità di mettere insieme, come dicevo prima, tante cose, tanti stili diversi, tanti umori, sentimenti ed emozioni. Sai cosa? Io volevo che ci fosse un cambio di registro continuo. È difficile in Italia far passare questa idea che si possa ridere e piangere subito dopo, trovare un registro grottesco e trovarne uno delicato, tenero subito dopo. È assurdo, no? Siamo il paese della commedia italiana. Quando, non so, rivediamo Il Sorpasso in televisione, si ride tantissimo durante il film, Gasman, e poi alla fine piangiamo. Però forse sui libri non tanto viene accettato, come se fosse una diminuzio. Certo. Beh, io non voglio assolutamente entrare nella lagna del comico che non viene capito. È vero che c'è una ritrosia rispetto a questo aspetto qua, però devo dire la verità. Io, tra l'altro, vengo da una formazione, ho studiato letteratura angloamericana, faccio il traduttore come hai raccontato tu, e lì di esempi invece ne avevo tantissimi. Avevo il mattatoio numero 5 di Vonnegut, avevo Comma 22 di Heller, avevo uno scrittore che oggi viene letto poco, che però secondo me era sublime, Tim Robbins, quello di Even no? Cowgirls Get the Blues, da cui fecero un vecchio film, e che cambiava continuamente. E quando ho cominciato a scrivere questo libro ho pensato, cerca Marco di ricordarti quanto ti divertivi leggendo Robbins quando eri all'università. Io continuamente pensavo al divertimento, alla gioia, al piacere del testo. Sì, alla gioia, al divertimento. Io ho sorriso, ho riso anche con questo libro, però mi sono anche emozionata, ed è comunque, io trovo, un libro di letteratura dove c'è una bella ricerca sulle parole, sull'uso proprio delle parole. Non è solo un libro di trama. Giusto per far capire ai nostri ascoltatori l'incipit: sono nato da uno sperma vecchio. Ogni mattina verso l'alba, allo scoccare dell'ora che nei grandi romanzi russi era deputata ai duelli in una campagna maestosamente livida, il nostro protagonista si svegliava in una periferia squallidamente plumbea con questa frase stampata in testa. In questo caso il protagonista è Nemo, diciamo Nemesio il giovane, il figlio di Nemesio padre, ecco. E questo incipit, sono nato da uno sperma vecchio, è una sorta di ritornello che torna spesso nel romanzo. È una frase che fai ripetere spesso al tuo personaggio. Perché? Ma innanzitutto volevo che ci fosse un bell'incipit forte. Qualcuno mi ha detto che era respingente, anche se questa parola mi sembra, insomma, abbastanza neutrale. Anzi, tra l'altro, di recente a una presentazione in una città, una signora si è alzata dal pubblico e ha ripetuto la parola sperma, non so, 20-25 volte per raccontare che gli era piaciuto questo incipit. È stato inquietante che in una libreria irrompesse questa parola così tante volte. Volevo che fosse forte, volevo che lui si sentisse, lui è nato quando il padre era settantenne. In questo senso uno sperma vecchio, quindi appunto. Uno sperma vecchio, un materiale di risulta, un po' datato, e ha perso questo slancio vitale. Crede di averlo perso, crede di essere uno che non ha forza, naturalmente si è isolato, accantonato autonomamente in un angolino, no? Lui lavora come maschera dentro un museo, il padre era grande artista. Il museo delle avanguardie, ti sei divertito proprio a giocare anche col lavoro di Nemo. Con l'arte dove tocchi, praticamente è già stato fatto. Non molto tempo dopo la pubblicazione un amico mi ha mandato una foto da un museo, non mi ricordo più bene dove, mi ha detto sono nella sala dei vuotisti, perché ho immaginato questi vuotisti che fanno soltanto dei cerchi neri su sfondo bianco, e mi ha detto sono nella sala dei vuotisti, ma ha legato una foto perché c'erano solo quadri con cerchi neri su sfondo bianco. E questo sarebbe un'avanguardia dell'avanguardia, insomma. Esatto. Tu dicevi che Nemo si ritiene, insomma, frutto di materiale di risulta. Infatti si ritiene sempre decisamente quasi inferiore rispetto al padre. Diciamo che la figura del padre, almeno per quanto riguarda la figura pubblica, è ingombrante, perché insomma il padre è un famoso pittore, un famoso artista. Lui si sente molto piccolo nei suoi confronti, soffre di questa differenza di, come dire, di livello. Sì, soffre molto. In realtà poi questa cosa dà adito a letture sempre un po' sociologiche che ho letto qua e là, e che io invece non è che anche a me in realtà non interessavano granché. Cioè, a me interessava che lui ripercorresse in sogno tutto il Novecento. Si parla moltissimo di lui, della sua vita triste, ma in realtà lui reinventa tutta la vita del padre, e a quel punto a me dava la possibilità di andare a Parigi, a Weimar, alla Berlino di Weimar. Sì, perché c'è la prima, la seconda guerra mondiale. Insomma, tutto il resto. Conosce le mondine, perché col PC naturalmente fa un classico artista che va a erudire il popolo, quindi si innamora di una mondina. Cioè, lo voglio dire oggi perché è una delle parti che amo di più e che in realtà non viene quasi mai citata nelle recensioni. E questo mi dava la possibilità di attraversare tutto questo secolo in modo invece estremamente gioioso, estremamente vivo. E quindi questo Sperma Vecchio, in realtà, lui capisce che è soltanto un suo tormentone, una sua paura di vivere. Perché nel sogno in realtà riesce a vivere appunto un secolo attraverso quello che nel sogno pensa sia stata la vita di suo padre, perché noi non sappiamo se è stata realmente così. Certo. Tu ti sei preso anche delle licenze, diciamo, storico-poetiche. Beh, sì, là era il bello di questa cosa qua. Insomma, i libri di storia sono belli, è importante conoscere, dopodiché cominciano a diventare un po' noiosi. Allora torniamo là con la macchina del tempo, della fantasia, dell'immaginazione, e riviviamolo in modo diverso. Naturalmente a quel punto ti concedi di libertà di puro godimento personale. Ad esempio, quando ho letto questo libro, questo librone sulla Repubblica di Weimar, ho scoperto che a Berlino c'era Billy Wilder, che si chiamava in un altro modo, che faceva il giornalista, faceva recensioni di cinema, e ho scoperto anche che a Berlino in quel momento viene proiettato per la prima volta La febbre dell'oro di Charlie Chaplin. E ho pensato, eccoci qua, perché il mio protagonista non può conoscere Billy Wilder e perché non possono andare insieme a guardare La febbre dell'oro di Charlie Chaplin? E ultima cosa, perché non vanno con due amiche e finirà in una strana situazione? E tutta questa cosa naturalmente... La letteratura lo permette. Sì, il sogno lo permette. L'unica cosa, quando sogniamo, noi passiamo metà della nostra vita a sognare, insomma, ci avrà un valore questa cosa, e quando ci svegliamo diciamo, oh, com'era bella questa cosa, la vita è così noiosa, così prevedibile, così, insomma, anche la letteratura a volte, insomma, la letteratura d'evasione, ecco, usiamo questo termine, per me è importante anche, volevo evadere dalle gabbie del senso, del buon senso, del senso storico, entrarci, naturalmente ci sono artifici grafici, giochi di parole. Infatti ci sono anche giochi di parole, non so, mi ha ricordato un po' una certa letteratura magari degli anni 60, quando si sperimentava anche, non so, mettere le parole in diagonale, anche graficamente sul testo. Sì, sì, io non mi fermo mai davanti a quelle cose, anzi mi divertono moltissimo, non capisco perché non lo facciano tutti, cioè dico, ma come abbiamo questa possibilità? A volte, no, quando guardi un film non capisci perché non stanno facendo qualcosa di diverso, di magico con questa cinepresa. Allo stesso modo le lettere, le parole sono... Io amo moltissimo, amo tanti diversi generi di letteratura, ma amo moltissimo Perec, amo moltissimo Queneau. Vengo molto da quella scuola, vengo anche demenziale, se si vuole, per certi versi, e coltissima insieme. E miscelare queste due cose insieme mi è sempre piaciuto. E quindi... ho detto, non fermiamoci davanti a nulla. Non ti sei fermato davanti a nulla, infatti l'escamotage che hai trovato per i tuoi personaggi per raccontare il secolo del Novecento, dicevamo, è molto bello. Cioè, Nemesio Junior, appunto, sogna in modo cronologico. Cioè, lui lo racconta ad un amico e dice, senti, non pensare che sia ammattito, ma è come se ogni notte viaggiassi nel tempo e rivivessi quello che è accaduto a mio padre. Capisci? Passo dopo passo, come se fossi lui. Cioè, lui sogna in modo cronologico. Sì, all'inizio ho pensato di confondere i piani, poi ho pensato che sarebbe stato veramente troppo confusionario. E qua ci voleva un po' di ordine, infatti ho creato una specie di cornice in cui lui corre per la città alla ricerca dell'autobiografia, che lui chiama autoagiografia del padre, e allo stesso tempo corre indietro nel tempo, ripercorrendo le sue orme, fino naturalmente al tabù. Io mi fermo, il viaggio nel tempo si ferma quando lui conosce sua madre, là non potevo, certo, non poteva andare avanti. Quello è il momento in cui finisce il sogno e si apre un discorso diverso. A proposito anche degli stili, dicevo prima, c'è anche una punta di grottesco ogni tanto. Per esempio c'è un'immagine che adesso ho segnato qui fra le tue pagine. A un certo punto lui fa una descrizione. Più che da tonico, la poderosa mammella della balia calabrese aveva agito da eccitante. Tu sorridi, ma ho sorriso anch'io. Nemesio sembrava in preda ad uno spirito demoniaco. Cioè, tutta questa fase in cui appunto Nemesio padre viene immaginato piccolo e viene allattato in modo particolare da questa balia, che ha una punta di surreale. Ah sì, senz'altro. Io mentre scrivevo, poi pensavo tantissimo anche ai comici, alle comiche proprio. Quando va in guerra, per esempio, pensavo a Charlot Soldato, pensavo a Buster Keaton, pensavo a Kaurismäki. Devi metterti dei punti di riferimento, tenerli presente. E allo stesso tempo io tendo al grottesco anche quando scrivo cose diverse. E lì, naturalmente, siccome questo individuo ha dominato il secolo, aveva un grande slancio, all'improvviso ho creato una serie di, saranno 10-12 iniziazioni, in cui in realtà lui non perde mai la verginità, ma ha sempre questioni sì, sessuali. In modo così. Tra cui questa baglia calabrese che a un certo punto. E lui era neonato, ecco. Lui era neonato, ma anche i genitori osservano questo allattamento in cui la baglia rovescia all'indietro il capo e dicono: ma la situazione ci sta sfuggendo di mano, di seno forse, e insomma la licenziano. Senti, abbiamo detto che tu sei un traduttore, insomma, soprattutto dall'inglese, giusto? Passare dall'altra parte, diciamo, della barricata, per un traduttore è più facile o più difficile? Cioè, mi spiego, vieni influenzato dagli autori che hai tradotto magari più spesso di altri, oppure riesci a staccarti dal loro stile? No, c'è un solo scrittore che ho tradotto e che mi ha influenzato, che si chiama Percival Everett, non è tanto famoso, pubblicato da Nutrimenti, ma lui sicuramente ha avuto un'influenza su di me, però ho smesso di tradurlo da un po'. Devo dirti questa cosa, mi viene in mente sempre quando parlo di questa cosa il chitarrista dei Velvet Underground, Sterling Morrison, che diceva sempre, quando aveva una band, gli rimpiangeva di non fare l'insegnante, perché lui avrebbe voluto fare l'insegnante. Quando poi è andato a fare l'insegnante, rimpiangeva di non suonare la chitarra più con Lou Reed. E per me è un po' così. Quando traduco, ho voglia di scrivere. Quando scrivo, mi manca tradurre, perché tradurre è una cosa meravigliosa, io lo adoro, ho cominciato a farlo da ragazzino, traducevo i testi di Bob Dylan, cioè mi affascinava l'inglese, ero proprio, andavo in quella direzione. Però tu hai sempre un testo di partenza, è ovvio dirlo, insomma, e lentamente lavori su queste parole, no, le magie. Quando ti ritrovi in un file aperto da solo, nel vuoto, sei davvero, come diceva Conrad, il romanzo è nebbia. E questa sensazione di è come fare il trapezista senza rete, insomma, è una sensazione un po' di sgomento a volte. E allo stesso tempo, però, scrivere mi dà molto più piacere, tradurre mi rassicura di più, tra l'altro è un lavoro che reputo nobilissimo, portare in italiano grandissimi autori, e allo stesso tempo a volte hai un senso di frustrazione, di pesantezza, che invece io ogni volta che, sebbene scrivere sia molto più difficile, molto meno gratificante di primo acchito, poi quando si apre la pagina, quando finalmente succede. In questo caso, per esempio, ho detto, questa volta voglio scrivere una storia, un'ampia storia. Pensavo moltissimo ai romanzi picareschi, dove una scena si susegue a quella successiva, solo che al posto dello spazio qui c'è il tempo. Grazie allora a Marco Rossari, autore di Le 100 vite di Nemesio, pubblicato dalle edizioni EO. L'ho detto dall'inizio, sarà un commento poco letterario, però secondo me questo libro è tanta roba e ve lo consiglio. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che questa sera alle 22 andrà in onda un'edizione speciale del Cacciatore dedicato agli scrittori del noir. Saremo in compagnia di Gianrico Carofiglio, Antonio Manzini, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto, Donato Carrisi. La stessa puntata sarà replicata domani, 1 gennaio, alle 18. Grazie in regia Valeria Bernardi. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate, anche quelle di archivio, su radio24.it nella sezione Il Cacciatore di Libri. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.